forse la luna dall'altra parte ha un'altra faccia che si nasconde come Jekyll and Hyde che non dormono mai e che vivono senza sognare un viso vecchio e disperato come di un uomo che ha tanto amato come Jekyll and Hyde che si cercano ma si ritrovano al cambio di guardia. Forse là dietro la faccia non piange, forse là dietro la faccia sorride, forse una porta c'è dentro la luna che alla tristezza arriva nel cuore. Aspettano se voglio ancora cambiare.